Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile. Mecenate, chi era costui? Gaio Cilnio era il suo nome, era un patrizio romano, in realtà nativo di Arezzo, vissuto 2000 anni fa, grande amico e consigliere dell'imperatore Augusto e protettore di artisti e poeti, tra cui Orazio, Virgilio e Properzio. A un certo punto Mecenate cadde in disgrazia perché Augusto si era innamorato della moglie Terenzia, e si sa come vanno queste cose con gli imperatori. I mecenati di oggi rischiano non di perdere il sostegno del principe, ma quello del mercato. La crisi finanziaria, infatti, obbliga le imprese a tagli dolorosi e gli investimenti culturali rischiano di essere una delle prime voci a essere sacrificate. Di austerità e cultura parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma prima di tutto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. Francia. Anche la cultura è in recessione. La mancanza di fondi minaccia gli investimenti privati per mostre e musei. New York. Chi sono i censori di Google e YouTube? Come prendono le loro decisioni e soprattutto chi li controlla? In America è polemica. Germania. Il filosofo Sloterdijk è sempre sotto i riflettori dei media, ma nessuno parla del suo ultimo libro, Quando non far notizia, fa notizia. Egitto. Ma quale antisemitismo? Era solo un'iperbole. Parola del ministro della cultura, Farouk Hosni, che a maggio dichiarò: brucerei i libri israeliani. Russia. Non ci sono più soldi e la casa di Anton Chekhov, dopo un secolo, rischia di cadere a pezzi. Si parlava di mecenate e di mecenati contemporanei e Le Figaro, il giornale francese, ci informa che in Francia anche mecenate comincia a sentire il vento della recessione e stringe i cordoni della borsa. Una frase attribuita ad uno dei manager di una delle più importanti imprese francesi impegnata sul fronte degli investimenti culturali dice proprio questo: la crisi complica le nostre equazioni finanziarie. E che è un modo, diciamo così, un po' così per attenuare l'impatto dell'espressione, per dire che in realtà si vuole tagliare proprio le spese destinate alle mostre o ai concerti o agli spettacoli che vengono finanziati dai privati. E in particolare una delle più importanti imprese francesi in questo campo, la Louis Vuitton, che ha finanziato la grande mostra al Grand Palais su Picasso e i maestri, dice che appunto bisogna incominciare a essere più selettivi, anche se rimane una delle passioni di Bernard Arnault quella di concentrarsi proprio sugli investimenti culturali. Anche Bouygues Telecom dice che bisognerà riorganizzarsi e cercare più delle cose significative, concentrarsi su alcuni obiettivi. Per esempio la Bouygues vorrebbe favorire la promozione della lingua francese sostenendo un premio letterario, quindi meno mostre, più iniziative a sostegno della cultura francese. E anche la Cité du Patrimoine de l'Architecture, diretta da François de Mazière, dice che risente la flessione nel campo dell'immobiliare e dell'architettura, per cui molte delle loro iniziative devono essere riviste al ribasso, e nel 2009 pensano di fare un'esposizione su Parigi, quindi sul sviluppo urbanistico, e una sull'abitazione ecologica, insomma scegliendo sostanzialmente degli obiettivi più legati ai temi dell'attualità economica. Ma ne risente della crisi anche il Louvre, la cui metà dei fondi proviene proprio dai privati. Ma che impatto avrà la recessione in Italia sul piano proprio del mecenatismo e dell'impegno dei privati sul fronte delle mostre e dell'arte? E lo chiediamo all'ospite che abbiamo al telefono, Massimo Vitta Zellman, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. E Massimo Vitta Zellman, oltre che presidente e consigliere e delegato di Schirà Editore, è anche vicepresidente della società Artificio, che produce manifestazioni artistiche. Inoltre presiede anche la RCS Libri, quindi conosce molto bene questi fenomeni e questi problemi. Si sente già il vento della recessione anche nel campo dell'investimento culturale in Italia? Direi sicuramente di sì, e penso che il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. Già in questo paese, devo dire, se penso alla sponsorizzazione culturale, mi sembra di poter dire che ci si è arrivati con fatica da un concetto che era più quello della beneficenza. No? Certo. Le banche, le casse di risparmio, eccetera, sostenevano gli eventi più come un dovere che come un'operazione, diciamo, di pubblicità legata ad un ritorno di immagine. La situazione era in evoluzione lenta ma positiva, però indubbiamente l'aria gelida che si abbatte sull'economia mondiale rende ora questo genere di investimenti fra i primi ad essere messi in discussione. Ecco, però in Italia c'è anche un impegno, diciamo, dell'ente pubblico, degli enti locali, i quali peraltro non sono in buone acque nemmeno loro. Ma questo se vogliamo è un problema che complica. Sappiamo che in Italia, per esempio, le mostre d'arte tendenzialmente non sono organizzate nei musei, quindi non coincidono con le grandi sedi delle collezioni permanenti, come viceversa avviene nella gran parte degli altri paesi. Sono piuttosto delle operazioni promosse all'interno di spazi monumentali, tra virgolette, vuoti, diciamo, come Palazzo Reale a Milano, o come le Scuderie del Quirinale, o come Strozzi a Firenze. Sì, l'altare della patria. Esatto. E sono promosse dalle amministrazioni locali con una serie di problematiche che sono di natura economica, che sono anche di corta programmazione, perché tendenzialmente non si programma oltre la fine del mandato, eccetera, eccetera. Ora, la riduzione degli investimenti in generale dello Stato e degli enti locali crea un problema ulteriore, perché la convinzione che si è ingenerata per un certo periodo che certi avvenimenti, in particolar modo le mostre di successo, potessero essere totalmente autonome dal punto di vista finanziario è una bufala, come si suol dire. Cioè l'indotto diretto di una mostra, ciò che si ottiene attraverso la biglietteria, attraverso la vendita dei prodotti editoriali, di merchandising, le altre forme di sfruttamento, le serate, eccetera, eccetera, eccetera, in una programmazione di attenta qualità può arrivare a coprire il 65-70% dell'investimento complessivo. Se manca un investimento, diciamo, a fondo perduto o di sponsorizzazione a fronte di un ritorno di immagine, i conti diventano realmente problematici. Ma questo vale anche per le cosiddette mostre blockbuster, cioè queste, non lo so, queste per esempio che vengono fatte a Brescia, Santa Giulia, che attirano centinaia di migliaia di visitatori. Queste hanno un impatto formidabile anche sull'economia locale, no? Sì, ecco, voglio dire, questo è l'unico modo di guardare il conto economico complessivo di un'operazione che però non riguarda l'operatore privato, diciamo così, riguarda la città che ha promosso un certo genere di evento. Certo, se io penso, per parlare di esperienze che ci riguardano da vicino, se penso alla mostra di Gonzaga che ha portato a Mantova 500.000 visitatori, ricordo che l'allora sindaco Burchiellaro mi parlava di un fatturato triplicato o quadruplicato di tutte le imprese della città, dalle boutique ai ristoranti, ai bar, eccetera, eccetera. Allora, indubbiamente, guardandola da questo punto di vista, e direi che il discorso è eminentemente riservato alle cosiddette città d'arte, ovviamente è molto più complesso fare un ragionamento di questo genere sulle metropoli, però da questo punto di vista i conti tornano, anzi, sono secondo me un sintomo della carta che questo paese dovrebbe giocarsi. Ecco. Si parla molto in questi giorni di un super manager per i musei italiani, che è un'iniziativa del ministro dei beni culturali Bondi. Lei come vede questa idea? Ma aspetterò a giudicare il fatto che la valorizzazione anche economica del nostro patrimonio artistico fosse un must è qualcosa che io stesso propugno da tempo immemorabile. Però la mia idea è un po' diversa da quella che ho visto per il momento emergere sulle pagine dei giornali, cioè dovrebbe essere la grande carta con la quale portiamo la gente qui. Certo. Non dubito che il prestito di opere d'arte contro danaro o la costruzione di piccole mostre rappresentative all'estero valga come specchietto per poi spingere i turisti a venire qua a vedere il complesso del nostro patrimonio. Credo che occorrerebbe una grande, seria politica di promozione di questo incredibile tessuto artistico unico al mondo che è il nostro patrimonio, certo. Grazie, dottor Zellman, buona giornata e buon lavoro. A presto. Grazie, arrivederci. E a proposito di crack e di recessione, i proverbi, la saggezza popolare, ci possono venire in soccorso anche di fronte alla più grande crisi finanziaria dopo il 29. Sul New York Times, Ben Schott, l'autore della famosa miscellanea di Schott, un bestseller molto noto, ci propone una collezione di proverbi che possono essere utili in questa situazione di rovesci finanziari. Per esempio, uno di questi proverbi che vengono presi da tutte le culture del mondo è «We leap into debt but crawl out». Noi saltiamo nel debito ma ne usciamo carponi. E un altro proverbio dice: del denaro, dell'ingegno e della virtù credi una quarta parte di quello che senti dire dagli uomini. E si può concludere con quello che non è un proverbio ma una citazione che dice: taglia corto le tue perdite, lascia correre i tuoi profitti. È di David Ricardo, il grande economista. E ancora a proposito di crisi e di beni culturali, ci spostiamo in Russia e per la precisione in Crimea, sulle sponde del Mar Nero, dove sorge la Dacia Bianca, dove Anton Chekhov, il grande drammaturgo, l'autore del Gabbiano, delle Tre Sorelle, del Giardino dei Ciliegi, passò gli ultimi anni della sua vita. Questa casa museo, piena di tesori e di documenti sul grande scrittore, sta cadendo a pezzi, il tetto perde, le pareti si scrostano e gli oggetti rischiano di ammuffire. Il problema è che il governo russo non sembra voler trovare i soldi per il restauro, perché la casa è in Ucraina e il governo ucraino a sua volta non vuole pagare per promuovere uno scrittore russo. La finestra sul cortile. Google's Gatekeepers, i guardiani di Google, è il titolo di un lungo articolo di Jeffrey Rosen sul magazine del New York Times. Chi sono i guardiani di Google? Sono alcuni signori e signore che hanno il compito di vigilare sui contenuti che vanno dentro a questo grande motore di ricerca, il più potente, il più popolare del mondo. Pare che si calcola che il 63% delle ricerche su internet vengano fatte attraverso Google, ma anche per esempio su YouTube, che a sua volta dipende da Google e dove addirittura pare che si scarichino 13 ore di video al minuto di materiale. Quindi è un continuo alimentarsi di filmati, di video amatoriali provenienti da tutto il mondo e totalmente incontrollati. Questi signori hanno il compito un po' di vigilare che questi contenuti non violino delle leggi o non offendano la sensibilità di gruppi etnici o di popoli e così via. Per esempio, nel 2006, racconta Rosen, la Thailandia bloccò l'uso di YouTube a tutti gli utenti thailandesi perché c'erano 20 video ritenuti offensivi per il paese. Peggio ancora è stato con la Turchia l'anno scorso, perché avevano scoperto le autorità turche che c'erano dei video su YouTube che insultavano il fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk in persona, e questo è considerato un crimine per la legge turca. In particolare pare che un videoclip sostenesse che Atatürk era gay, e questo ovviamente per la sensibilità turca è un insulto intollerabile. Questo clip pare che fosse stato messo online da un gruppo di tifosi del calcio greco che volevano offendere i rivali turchi. Ma in questi casi, proprio per riattivare il sito e permettere agli utenti di accedere ai contenuti di YouTube o di Google, i responsabili di Google cosa fanno? Finisce che bloccano questi contenuti ritenuti offensivi per venire incontro alle richieste dell'autorità locale. Ma questo significa che il responsabile del motore di ricerca si trasforma in editore, o peggio, in censore o in giudice, il che è una cosa che solleva qualche perplessità in chi ha a cuore la libertà di espressione. In America questo tema è molto sentito, perché all'inizio del secolo scorso ci fu addirittura un candidato socialista per la presidenza, Eugene Debs, che fu in prigionato nel 1919 per aver protestato pubblicamente contro l'intervento americano nella prima guerra mondiale. E negli anni 60 molti altri furono censurati perché parlavano e si esprimevano su questioni politiche, su posizioni che non venivano considerate politicamente corrette. Ma succede ancora oggi, perché per esempio nel maggio scorso il senatore Joseph Lieberman contattò Google perché aveva notato che circolavano dei video su YouTube che esaltavano i fondamentalisti islamici e gli attentatori delle Torri Gemelle. E un altro fatto importante che è successo è quello di Michelle Malkin, invece una columnist conservatrice, che mostrava dei video nel suo sito, dei video nel suo blog di vittime della violenza jihadista, in particolare Theo van Gogh, il famoso regista olandese che fu ucciso da un estremista islamico, e cercava di mettere in guardia gli utenti di internet da questo pericolo. E cosa è successo? Che i responsabili di YouTube l'hanno bloccata, dicendo che questi contenuti erano inappropriati. Allora, che cosa sta succedendo della libertà di espressione nell'era di internet? Hanno diritto gli responsabili dei motori di ricerca o dei vari siti web di bloccare dei contenuti a loro giudizio? Lo chiediamo a un ospite che abbiamo in linea, Massimo Teodori, buongiorno. Buongiorno. Massimo Teodori, storico, americanista e autore di vari libri di successo sull'America dei nostri tempi, Maledetti Americani, Benedetti Americani, e ultimamente anche di questa storia dei laici nell'Italia clericale e comunista. Teodori, che cosa le suggerisce la lettura di questo articolo? È preoccupante, no, che ci sia questa tendenza alla censura? No, la lettura di questo articolo suggerisce cose non soltanto preoccupanti, ma anche, diciamo, dal mio punto di vista positive, nel senso che la prima cosa di cui bisogna tener conto è che attraverso la rete, con tutti questi strumenti, appunto, di cui Google è quello più importante, ma YouTube e tutto il resto, c'è uno straordinario allargamento del free speech, della libertà di parola, che poi significa libertà di parola, libertà di scrivere, libertà di opinione in tutto il mondo, che rompe tutte le bandiere. Proprio gli esempi che vengono ricordati, cioè vale a dire il fatto che la Turchia si è ribellata a notizie messe in rete sul suo fondatore, che altri stati più o meno autoritari hanno cercato di bloccare la rete, è la cosa che normalmente succede per esempio in Cina rispetto a tante questioni dei diritti umani. Tutto questo dimostra che ormai questa tecnologia rivoluzionaria porta con sé una straordinaria diffusione, uno straordinario incremento della libertà di parola con tutto quello che ne consegue. E naturalmente tutto questo comporta una seconda conseguenza, cioè chi è che deve regolare tutto questo? Cioè chi è che ha il potere o il dovere o il diritto di stabilire che cosa può andare sulla rete e che cosa non può andare sulla rete? Questo mi pare che sia il grande questo tema è il quesito, del rapporto certamente. Fra diritto e libertà. E siccome fino ad ora, mi pare di aver proprio capito dall'articolo del New York Times, del magazine New York Times, finora è stata una partita che si è giocata fra le grandi società di informatica come Google, Yahoo, eccetera, e la legge americana, perché finora la partita è stata questa. Probabilmente negli organismi internazionali occorrerà porre questo problema affinché ci siano delle direttive, non delle proibizioni di carattere internazionale che valgano per tutti quanti i paesi. Questo è il grande problema del rapporto fra il diritto e la libertà di opinione e nell'era della rete dell'informatica. Non c'è dubbio, ecco, ci vuole una regolamentazione su scala internazionale, perché altrimenti succede quello che viene raccontato in questo articolo del magazine New York Times, che anche all'interno di questi organismi privati che devono poi decidere su che cosa mettere in rete e che cosa no, ci sono delle posizioni differenti, perché qui c'è chi sostiene la libertà di espressione a ogni costo e dice no, non dobbiamo concedere alle autorità turche di censurare nulla, e chi invece si preoccupa pragmaticamente della sicurezza personale e della libertà dei suoi impiegati nell'ufficio turco, sì, di Google, no? Bisogna guardare appunto le posizioni dei nuclei nazionali, certo, della rete, insomma, no? E di mettere in condizione di funzionare. C'è un'osservazione che ho letto in questo articolo che mi pare particolarmente importante per la riflessione futura, vale a dire questo dirigente di Google che parla, dice: beh, Google non è soltanto una rete neutrale ad uso di tutti gli utenti, ma è anche un business, e quindi, non c'è dubbio, e quindi deve, diciamo, in una certa misura conciliare i suoi interessi come business della informatica e della comunicazione dell'informazione con il fatto di essere usata in maniera neutra da chiunque per qualsiasi cosa. Tutto questo riporta un po' alla questione che io ponevo prima, vale a dire deve entrare qualche organismo internazionale, insomma l'ONU deve creare una branca su questo terreno, come del resto lo ha già creato per la privacy, e qui siamo molto vicino a tutto quanto il territorio della privacy, soltanto che adesso la privacy è, appunto, attraverso la rete non è più una questione nazionale, ma una questione che supera tutte le barriere, fortunatamente, certo, dico io. Certo. Bene, noi ringraziamo Massimo Teodori, buona giornata e a presto. Bene, ora ci spostiamo in Egitto, dove sulle pagine di Al Ahram Weekly apprendiamo che il ministro della cultura egiziano Farouk Hosni è stato candidato alla direzione generale dell'UNESCO dal suo governo. Questa designazione ha già suscitato molte polemiche al Cairo, perché i suoi sostenitori dicono che lui è un uomo molto raffinato, un sostenitore dell'opera, del balletto, un campione dell'archeologia, del teatro e un amante della letteratura, mentre altri suoi avversari dicono che era un ministro corrotto e che alcuni dei suoi collaboratori sono stati condannati per tangenti. In un'intervista alla Al-Ahram Weekly gli si obietta, il giornalista gli chiede come mai lui abbia dichiarato che avrebbe bruciato tutti i libri israeliani nelle biblioteche egiziane, e lui risponde: ma no, ma era solo così per dire, perché in realtà volevo rispondere ad un esponente dei Fratelli Musulmani che diceva che nelle biblioteche c'erano troppi libri israeliani, e io ho negato questo e ho aggiunto che se li avessi trovati li avrei bruciati con le mie stesse mani. Era un modo per ribadire il fatto che non era vero che c'erano tutti questi libri, non certo un'esaltazione del rogo dei libri, insomma voleva dire una carineria e non l'avevamo capito. E ci spostiamo in Germania per parlare del superstar filosofica Peter Sloterdijk, l'intellettuale tedesco più amato dai media, a cui il canale televisivo Dreisat ha affidato la trasmissione culturale del Philosophisches Quartett, quartetto filosofico. Eppure, del suo nuovo libro intitolato Teorie del dopoguerra, uscito sia in Germania che in Francia, nessuno sembra volerne parlare. Lo fa notare la Süddeutsche Zeitung, confermando però che in questo modo Sloterdijk riesce a fare notizia anche quando nessuno si interessa a lui. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande e Laura Marchesi in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.